It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli è sempre mezzanotte, Kappa e Drago devono salvare il tucano triste dalla condanna ingiusta e nello stesso tempo capire se anche loro sono destinati a diventare dei polli. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Liberate il tucano! Vola tucano! Firmate per la libertà al tucano! Libertà al tucano! Libertà al tucano, Drago, qui non firma nessuno. Ma bastano poche firme, forza! Forza, polli. Liberate il tucano! Polli, galline, tacchini! Shh, Drago, shh, shh. Ascolta, ascolta, forse dicono qualcosa sulla sorte del tucano. Come si dice tucano in tedesco? Lineare Verstärkung? Ma no, ma il messaggio robotico è sempre lo stesso. Sì. E poi l'idea di fare questo banchetto per raccogliere le firme, sì, senz'altro nobile e lodevole. Ma il fatto è che non si ferma nessuno. Sì, non si ferma nessuno, non firma nessuno. C'è troppa indifferenza. I polli non sanno cosa sia la solidarietà. Liberate il tucano! Firmate per la libertà del tucano! Questo ambiente, K. Questo ambiente li ha resi egoisti. D'altra parte, come fai a dargli torto, dai? No, dar loro torto, Drago. Parla bene, dai. Ma suona male. Cosa? Cosa c'entra che suona male? No, K. Cosa? Ma sei sicuro di star bene? Ma sì, ma smettila di chiedermi continuamente se sto bene, se non sto bene. Sembri la mia zia Valva Vulva. Ma vedete? Ma vedete che ti chiama? Avevate capito bene? Basta! Ehi, hey, K, guarda laggiù chi c'è! L'amministratore delegato! Amministratore! Amministratore delegato! Firmi anche lei per la libertà del tucano! Amministratore! Venga, amministratore! Come? Come siete cambiati? Come siamo cambiati? No, niente, niente, sono di fretta. Che state facendo? Vendete popcorn? Ma no, stiamo raccogliendo le firme per chiedere la grazia a quel povero tucano triste. Non consegui più. Senta com'è triste. Lei che qui dentro è una vera autorità, una persona importante. Amministratore, per cortesia, dovrebbe fare qualcosa. È un errore giudiziario questo del tucano. Lo so. Lo so. Lo sa, lo so anch'io. Ho già preso in mano la questione. Devo dirvi però che non è molto semplice. Si tratta di un caso di diritto internazionale. Le rogatorie richiedono tempo. E poi ci sono i fine settimana, lo sciopero dei giudici, lo sciopero degli avvocati. Il fine settimana? Il fine settimana. A sciare. Scusi, amministratore, qui si allevano galline e il tucano è un tucano. Cosa c'entra il diritto internazionale? Non ci va un giudice, si tratta di animali diversi. A voi sembra semplice, ma la giustizia è una macchina lenta, faticosa. Ci vogliono delle spintarelle. Con le spintarelle tutto funziona meglio. Ma come? Amministratore, cosa fa? Ci chiede una tangente adesso. Una tangente? Ma per chi mi avete preso? Cappa. Io sono una persona seria. Sì, va bene, volete il mio esatto status professionale? No, va bene, io sono socio ordinario di una SRL lussemburghese con capitale russo che detiene le azioni di una società anonima in Nuova Caledonia, controllata da soci francesi. Il mio nome riappare poi come presidente di una fondazione a Monte Carlo che contiene 65 piccole immobiliari che lavorano sodo per creare del nero che viene investito in polli. Polli. E qui nella fabbrica di polli sono l'AD, il managing director, l'amministratore delegato. Ecco, voi pensate che uno con un pedigree come il mio possa chiedervi una tangente? Ma smettete, non azzuffatevi. Ritornate a voi stessi. Amministratore delegato. Managing director. Io sono Alberone, lo psicologo dei polli, e scrivo tanti libri per darvi dei consigli. L'amore non è amore se non è litigarello, la vita non è vita se non ti senti bello, e la felicità è proprio tutta qua. Chiedete un'opinione allo psicologo dei polli, la vendo un tanto al chilo sulle spiagge degli atolli. E mentre vi abbronzate sotto il solleone, ecco la soluzione all'ombra di Alberone. La fabbrica di polli. Ma che ora ci danno il mangime? Ma quale mangime? Ma capa, cerca di non distrarti. Allora ricordati, tu sei un uomo. I polli sono quelle bestie a due zampe, li vedi? Perché? Tu ne hai quattro. No, ma ho due gambe e due piedi, non due zampacce unghiute. Come? Due? Zampacce unghiute. Unghiute? Unghiute. Unghiute sembra il nome di un gorilla in divisa che ha appena fatto un golpe nella Repubblica Centrafricana. Ah, tipo... Il colonnello Unghiute ha conquistato il potere con una truppa di mercenari belgi. Proprio così, Drago, proprio così. E invece Unghiute non è il colonnello che ha fatto il golpe in Centrafrica, ma sono le zampe dei polli e anche quelle del tucano. Il tucano lo fanno fuori oggi. Ma come? L'ho saputo adesso. Adesso vado a chiamare tutti i parenti e ci facciamo un bel picnic a base di paroxetine e mangine. Intanto tagliano la testa a quel cocorito cresciuto. Ma no. Senti come struggente adesso l'iPhone Mars, adesso che sa che deve morire. Ma no, lui non lo sa ancora. Mica glielo dicono, no? Ma no. Mica parla la nostra lingua. Vabbè, ma è il suo diritto sapere cosa gli succede. Sì, ho capito, ma se lui dici, uè tucano, guarda che oggi ti ammazziamo, lui non capisce niente e continua a cantare come un bamba. Ah, capito. È tonto. Ah, ecco. E tanto fagli credere che va tutto bene. E poi, zac, via la testa, no? No, siete, il comitato Vola Tucano non ci sta. Esatto. Liberate il tucano! Sì, è una vergogna, liberate il tucano! Liberate il tucano! Liberate il tucano! Liberate il tucano! Vola Tucano! Liberate il tucano! Vola Tucano! Vola Tucano! Vola Tucano! Vola più lontano! Libero lui tornerà nel suo Sud America. Vola tucano, vola tucano, vola brasiliano. 3,50 more. In qualità di amministratore delegato della fabbrica di polli, vista la persistente latitanza dei polli traduttori ufficiali dal portoghese, condanno il tucano triste alla pena capitale, in quanto non sappiamo bene cosa farci. In questi casi il regolamento parla chiaro: il clandestino extracomunitario deve essere abbattuto. Così ho deciso. Che cosa succederà adesso? Riusciranno Kappa e Drago a capire se il processo di pollizzazione funziona anche per gli uomini? E se sì, che ne sarà di loro? Lasciate trascorrere questo weekend, riascoltate le puntate online e fatevi trovare puntuali all'appuntamento lunedì a mezzanotte su Radio 3 per i prossimi tachicardici allestimenti de... La fabbrica di polli. Un programma di Kappa e Drago con Roberto Accornero, Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Luca Gemma, Luca Micheli, Luca Monarca, Massimiliano Speziani, Mark Worden, parlumen.com, la fabbrica di polli @rai.it. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. Every night it's the same old. Good night, ladies and gentlemen. Good night. Bar.